Civiltà. La geografia. I mari. L'Italia è una penisola bagnata dal mare Mediterraneo. A est c'è il mare Adriatico, a sud-est il mar Ionio, a ovest il mar Tirreno e a nord-ovest il mar Ligure. Tutti sono parte del Mediterraneo. Circa un terzo degli italiani ha la casa lungo o vicino alle coste, e molte città italiane sono lungo le coste.